oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno. Buongiorno Willy. Chi c'è a fianco a te, Willy? Buongiorno, io sono in aiuto questa volta, sono in aiuto regia, di fianco a me c'è Elisa. Ciao Elisa. Buongiorno a tutti. Oh, finalmente abbiamo trovato il modo di sostituirlo, sto antipaticone. Ecco, adesso me ne sto qui zitto e buono, guarda. Ma più che altro si è raddoppiato. Esatto, vogliamo Elisa, sempre e comunque. Grazie, grazie. Così, un gesto di fiducia. Io ho la cuffia che va e viene, ma non è colpa vostra. Ciao Francesco. Ciao a tutti, ciao. C'è stato un dibattito molto intenso poco fa su... di che cosa parlare. Avevamo lasciato il tempo, ti ricordi Willy, l'avevi detto tu, ne parleremo la prossima volta, perché qua la cronaca incombe. E quindi come si fa a non parlare col prof di la banalizzo, chi ammazza la famiglia e poi va a vedersi una bella partita al bar insieme agli amici? Scusate, l'ho banalizzata, ma perché ovviamente in maniera compiuta l'abbiamo sentita narrare in tutti i suoi più schifosi dettagli questa vicenda. Tra l'altro volevo farti notare una cosa, che sulla sintesi di Google News che dà le notizie principali, questa notizia qui è già scomparsa e non è che ci ha messo molto, Evidentemente il giorno che ha fatto clamore era in varie sezioni di Google News, adesso è già sparita perché non ci sono delle novità evidentemente succose che alimentino il voyeurismo della stampa e di chi la legge, insomma. Comunque Francesco, ma dunque dobbiamo fare i conti con il mostro che c'è in noi? Il fatto che la notizia scompaia, come dire, forse un segnale della difficoltà di tenerla lì. No, però tra le prime notizie di Google News c'è che è meglio non lavare il pollo perché aumenta il rischio di infezioni, che direi che... è fondamentale questa notizia, vero? Dunque, ecco. Gli psicologi direbbero che viviamo in una società rupofobica, cioè che ha la fobia dello sporco, per cui è ovvio che si esprime la rupofobia in tanti modi, compreso questo. Però la prima cosa che vorrei dire rispetto a questo problema è, intanto, secondo me è una cosa che inquieta molto. Quindi dal nostro punto di vista, a parte la capacità dei media di farsene portavoce, perché i media poi in qualche modo lavorano in senso inverso, non è che prendono quello che interessa la gente e lo lanciano e lo discutono e lo approfondiscono. I media prendono quello che interessa loro e lo lanciano e lo discutono. Secondo me c'è, come dire, una specie di schizofrenia, di dissociazione tra quella che è la vita reale e quello che succede nei media. Quindi da questo punto di vista si spiega benissimo il fatto che è una notizia del genere, perché io, tutti quelli con cui ho parlato in questi giorni, in tutte le sedi, sono inquietatissimi da questa notizia. Perché è, cioè, come dire, tu vai in uno dei posti più tranquilli del mondo. È questa la cosa. Poi in uno dei posti, esatto, più tranquilli del mondo. Un paesino tranquillo, ordinato, pulito, pieno di famiglie, pieno, esatto, di famiglie per bene, piccolo borghesi, senza nessun problema di altro tipo. Tutti li conoscevano, credevano di conoscerli, e pensavano che lì non potesse così, eccetera. Ci si aspetta tutt'altro da certi mondi. In realtà il problema è che in certi mondi crescono anche delle situazioni, come dire, demoniache, mostruose. Per cui il nostro problema è capire in qualche modo come è possibile, perché altrimenti si va verso quello che... C'è un bellissimo articolo di Ceronetti oggi sui luoghi comuni, si va verso un luogo comune, il luogo comune che è un raptus, è impazzito. È un raptus, ha avuto un raptus. Se no, come si fa senza un raptus a uccidere la moglie e i figli? Ecco, questo ora. Questo però corrisponde in qualche modo a un'esigenza fondamentale, trovare una spiegazione immediata, rapida e che non inquieta, perché il fatto è, se invece dicessimo in qualunque momento chiunque di noi può essere posseduto da un demone e uccidere, sarebbe molto più inquietante. Per non parlare dell'ombra sinistra che stende su quelli che vanno a vedere la partita dei mondiali, il fatto che chissà quanti quelli che vedono la partita dei mondiali hanno appena ammazzato, stanno esultando e chissà che cosa nascondono dietro la loro esultanza apparentemente innocente. Diciamo che per fortuna non è così diffusa la cosa, ecco, mettiamola. Ecco, tu subito ti schieri dalla parte. Beh, io sono la plus, capisci a me. Che devo fare? Io intanto solleciterei i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Come hanno vissuto questa notizia? Se la cosa li ha inquietati, non inquietati, se ci sono delle cose che non sono piaciute proprio anche a livello mediatico su come è stata presentata la notizia. Insomma, qualsiasi commento vogliate fare, noi aspettiamo la vostra voce al 346458 se volete intervenire in diretta, oppure via SMS o WhatsApp al 333 180 94 94. Willy, non ho capito un segno, ma pazienza. Non fa una piega, pensavo che ti eri dimenticata un riferimento per contattarci, invece li hai detti tutti alla perfezione, guarda. Volendo c'è anche la mail. Bene, amici, vedi, di rivivere @gmail.com. Volete andare in... Io che sono così buonino oggi. Volete andare in musica o volete proseguire? Vogliamo andare in musica. Abbiamo allora, bisogno di riflettere sui tifosi che ci ha detto poco fa. E invece io vi mando un segnale di pace, così abbiamo modo di meditare così. Meno bene, male. Bene, con calma. Erika Badu, the next time. 3.1 Radio Città Fujiko, oltre alla crisi con Erika Badu, Next Lifetime, ma non solo, anche con Francesca Clementoni che si sta pulendo un orecchio e Francesco Campione. Ho una cuffia che va un orecchio sì, un orecchio no. Ah, io avevo intravisto di là dal vetro altri movimenti, vero Elisa? Sì, sì, si vedevano questi movimenti strani. E vedi, hai capito, insomma. Va bene. Andiamo oltre. A proposito di eventi strani, avevamo lasciato i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici con questa domanda, chissà prima della partita quali misteri si nascondono dietro ognuno di quelli che poi partecipa al gioco, insomma alla visione del gioco e all'esultanza che ne deriva se poi vince la tua squadra del cuore, come nel caso di venerdì, appunto sabato, quando era sabato. Motta Visconti, nota località turistica, si direbbe in maniera ironica, un paesello del Pavese, tutto ciò che potrebbe essere appunto il borgo ordinato, quasi svizzero come immagine, diciamo, della cittadina in ordine, dove tutto funziona bene, dove ogni cosa fuori posto farebbe inorridire. Dopodiché succede questo, che è abbastanza fuori posto. Ma non è abbastanza fuori posto per chi pensa che questi posti siano questi posti così asettici, senza problemi, ma non è vero. Non è vero. Se basta considerare, per esempio, che circa il 90% delle violenze si avvengono dentro le mura familiari. E la famiglia, come dire, nei posti tranquilli trova il suo migliore habitat. Il problema è che noi, come dire, ci educano a pensare la vita umana con una certa superficialità. Ecco, per esempio, la mia domanda è: chi legge oggi Dostoevskij? Ma una chiave di lettura del mondo. Ce lo possono dire via SMS volendo. Nessuno legge più Dostoevskij. Nessuno legge più Dostoevskij. La chiave di lettura di questi fenomeni è in Dostoevskij. Cioè, la spiegazione non è che uno, siccome voleva liberarsi da una situazione oppressiva, aveva un'altra che amava e da cui voleva essere amato, ma questa lo respingeva e quindi lui non ne poteva più e si è liberato in un momento di esasperazione e così eccetera. Tutto questo, come dire, se lui avesse fatto questo ragionamento, sarebbe un cretino. In realtà non era un cretino, e proviamo a dare invece un'altra spiegazione. Ci sono momenti della vita in cui un demone si impadronisce di te. Ci sono momenti della vita in cui forze più o meno incontrollabili, che ci sono sempre nella vita dell'uomo, prendono il sopravvento. Che fine hanno fatto? Mi piace di più detta così. Prendono, perché il demone che si impossessa mi dà un po' un senso di una cosa esterna che ti prende, che tuo malgrado ti fa fare delle anche cose. Anche le forze oscure. Ma quella è roba tua. Però anche le forze oscure ti prendono tuo malgrado. Sì, però io penso è roba tua, non è esterna. Tu preferisci un certo modo di dirlo. Poi quello è, come dire, culturalmente determinato. Ci sono culture che lo dicono in un modo e culture che lo dicono in un altro. Ma basta che ci intendiamo. Cioè il problema è che a noi ci insegnano che noi possiamo fare quel che ci pare, che la nostra volontà è sovrana, che quello che noi con la volontà controlliamo la nostra vita, in realtà la vita umana è un coacervo di fattori, è determinata da un crogiolo di fattori, fattori più o meno controllabili o incontrollabili, più o meno noti o ignoti, che poi possono prevalere in certi momenti. Esatto, però è roba tua, insomma, la produci tu, non è so roba come nostra. Dire. Ma, questo ma che... noi, la domanda mia è perché noi ci meravigliamo quando in un posto così succede? Perché abbiamo trascurato di considerare che in tutti i posti dove c'è l'umano ci sono tutte, anche tutte queste forze. Dove c'è l'umano c'è il bene, ma c'è anche il male. Inevitabilmente. Il problema è che nel momento in cui noi lo trascuriamo, la presenza di queste forze, vuol dire che non abbiamo nessuna attrezzatura per confrontarci con queste forze, cioè nel momento in cui le avvertiamo, possiamo non accorgercene che stanno emergendo dentro di noi e quindi, per esempio, noi chiediamo aiuto. Certo. Cosa sarebbe accaduto? Cosa poteva accadere di diverso se questa persona avesse avuto un canale aperto, si fosse spaventata del fatto di poter concepire il proposito di assassinare moglie e figli? Se l'avesse avvertito, si sarebbe spaventato. E se uno si spaventa nella vita di oggi, che fa? Minimizza, fa finta di niente, non ci deve pensare alle cose brutte, e quindi non chiede aiuto. Ecco, questa domanda volevo farti proprio in merito a quello che stavi dicendo. Prima del che la forza si impossessi completamente di te e ti faccia arrivare a questo tipo di azioni, ci sono delle avvisaglie, cioè sì. Ci sono dei segnali che ti dovrebbero sì. Far capire che... questo volevo sì. Chiederti. Sì, sì, sì, ci sono le avvisaglie, sì. Il problema è se si percepiscono come tali, se allarmano, oppure se basta un'alzata di spalle per eliminarle. Se ci sono canali aperti per cogliere queste cose... che dovrebbero essere colte anche dagli altri. Riesci a farci qualche esempio così concreto per capire? L'esempio più chiaro della nostra esperienza è quando in una scuola capita che c'è un ragazzo che si suicida, per esempio. Mm-hmm. No? Nessuno si è mai accorto di niente. Quando si va poi a ricostruire la storia di quel ragazzo, è piena di comportamenti autodistruttivi, è piena di accenni alla perdita del senso della vita, è piena di problemi. Perché nessuno se n'è mai accorto? Per forza, se guardi da un'altra parte, vedrai quello che si vede guardando da quella parte, dalla parte da cui guardi. Cioè il problema è che se non si guarda tutto l'uomo... L'uomo non si guarda tutto nella nostra cultura, si guardano certi aspetti molto superficiali. Ecco, per esempio, faccio un esempio, la ragazza di 24 anni che hanno riferito i giornali, questo ragazzo che poi è diventato pluriomicida, lui diceva di amare e corteggiava insistentemente, no? Lei ha dichiarato: ma io pensavo che fosse uno di quegli attaccamenti che ogni tanto capitano a qualcuno. Cioè, la stessa persona che era oggetto delle attenzioni di questa persona qui non aveva capito quanto può essere grave e destabilizzante per una persona essere respinto in amore. essere respinto in amore per alcuni uh-huh. è la cosa più grave che ti possa accadere. La negazione di sé più terribile da gestire. Beh, forse con lei, non, proprio perché era l'oggetto dei suoi desideri, non l'ha molto dimostrato, perché appunto per far buona, bella figura, non so, no, mi ma dire, adesso, no? Però, adesso però dico una cosa che no, chiunque sia oggetto di attenzioni insistenti da parte di qualcuno che si è innamorato di lui o di lei deve sapere che se la cosa dura a lungo, quell'altro rischia comportamenti distruttivi e autodistruttivi. Dovrebbe saperlo. Chi te lo insegna? Non te lo insegna nessuno. Cioè, chiunque venga respinto riceve un'umiliazione profonda del suo essere, che se è una persona un po' immatura, no? Non la regge. Non la regge. Cioè, se un narciso fa come narciso, la ninfa eco è innamorata di me, io sono indifferente, io sono innamorato solo di me stesso e mi butto, quello è narciso. Ma appunto, se uno non si rende conto di quello che sta accadendo all'altro, per esempio, non può assumere gli atteggiamenti giusti. Altro punto, tu ricatti affettivamente la persona con cui stai. Per esempio, gli dici: devi stare qui anche se te ne vorresti andare perché hai due figli. Quella cosa lì è terribile da gestire, perché produce sensi di colpa e rabbie devastanti, dentro i quali tu, se non hai un aiuto giusto o una personalità sufficientemente forte, puoi venire distrutto. Capito. Ora, tutto questo però, questo, come viene preso nella nostra cultura? Non sul serio. No, non viene preso sul serio. Per esempio, la dimensione dell'educazione sentimentale, cioè il sapere che certe cose possono essere devastanti, e non è solo un giochetto dire sì o no, dirsi sì o no quando ci si ama, ma è una cosa che può devastare la vita di una persona. Questo chi è che lo sa? Chi è che ne tiene conto? Chi è che ne ha paura? Nessuno. Tu lo sai, Willy? No, non lo so. So che adesso andiamo in pubblicità. Prima uno stacco musicale che lancerà Elisa in questo momento, Joe Jackson con Stepping Out, e poi dopo ci sentiamo ovviamente di rientro dopo la pubblicità con Oltre la crisi. Può andare così? Scriveteci! Sì, è 333-180-94-94. out of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new torn lies with supreme visions of longitude. Rido perché il riso abbonda sulla bocca degli sposi. Sai perché rido? Non per l'argomento di cui stiamo parlando, ma per il fatto che Willy riesce a infilare il sole, Let the Sunshine, ovunque. Vedi, cioè, è pazzesco. Così, è la mia colonna, è talmente sonora. Depresso in questi giorni che continua a essere nuvolo, eccetera, che in ogni playlist c'è un brano riferito al sole. Io sono solare. Vabbè. Ecco, va bene, ecco. Scusate, torniamo seri, smetto di ridere. Sicura, quelli, sicura. Sicura. Sicura. Te lo mando in terapia. No, sicura da sé con la musica. Ah, ok, va bene. Non mi vuole neanche Francesco come paziente. No, sarò paziente. No, ho detto quello. Senti, cos'è che dicevi che avevi sentito tu al bar? Ah, bisogna ripeterlo in diretta di questa secondo cosa. Me sì, ci offre degli spunti interessanti di conversazione. Io sono rimasto agghiacciato da questo, proprio è stata qualcosa che mi ha fatto rabbrividire, e nel caso di Motta Visconti praticamente dei ragazzi commentavano dicendo: ma come, capisco la moglie ma i figli? Io non sapevo se intervenire per dire: ma siete matti, ma cosa state dicendo? Capisco la moglie, cioè no, io non capisco niente di tutto ciò. Ecco. Condanno e basta. Quindi, vabbè, andiamo a toccare temi... Ma perché è lo stesso uccidere un adulto o un bambino? Fa più tenerezza un bambino. Appunto, il bambino... È più debole, non si può difendere. Bambino è più debole, quindi capisco la moglie che magari, chissà... Tu ci hai già pensato qualche volta, hai avuto qualche desiderio di morte nei confronti della moglie. Infatti secondo me quelli che hanno fatto questa affermazione sono dei potenziali. No, è perché si riferiscono a se stessi, cioè concepiscono la possibilità di desiderare la morte di un adulto, ma non concepiscono la possibilità di desiderare o di causare la morte di un bambino. Cioè ci sono quelli che fanno gerarchie tra gli uomini. Ecco, per esempio, quando muore un vecchio di 90 più anni, ha già vissuto, che cavolo vuole? Ma lì è diverso. Cioè, secondo me. Se muore un bambino è tutta un'altra storia. È contro natura. Invece, se ammazzi la moglie o il marito. No, se ammazzi la moglie o il marito, si sa che un po' di violenza tra moglie e marito c'è. e che quindi qualche desiderio strano ogni tanto ti metto i sottotitoli, è ovvio passa. Che sei ironico in questo momento, perché se no qui scateniamo, sai, bordelli. Cioè, quando uno è ironico bisogna se mettere sotto, io visto che siamo in radio io ti metto i sottotitoli, stai parlando con ironia, ovviamente le forze delle relazioni, come quando facevo l'ironia con la mia bambina di 5 anni che dicevo guarda papà che è un'ironia, e la mia bambina mi diceva, quando non capiva, ci sei ironico vero papà? Esatto, ironico, ecco, così sono ironico. Nel senso che appunto c'è una gerarchia tra il pensare il valore della vita di un adulto a quella, rispetto a quella invece di un bambino che risulta più innaturale, che poi non si capisce perché. Comunque, torniamo a Motta Visconti e torniamo alle forze diaboliche che sono presenti in noi. È un po' oscure. È un po' come quei, mi fa pensare un po' a quei virus o quei batteri che sono sempre presenti in noi, poi ogni tanto si svegliano e ci danneggiano fisicamente in un batter d'occhio all'improvviso, e magari sono sempre stati lì silenti. Sì, certo, è un altro modo per dirlo, più metafisico, che in fondo c'è il male, e il male c'è sempre, non è detto poi che prima o dopo non si scateni e non prevalga, no? Però perché c'è così tanta difficoltà ad accettare, a inserire nella globalità di noi stessi anche la parte malvagia o malefica, non so come voi chiamare. Ma perché noi facciamo un'operazione culturalmente, quasi tutte le culture la fanno questa operazione, noi molto di più, di scissione tra il bene e il male. Cioè noi il bene lo accettiamo e il male lo rifiutiamo, e per poter fare questa operazione noi dobbiamo distinguere il bene dal male. Infatti una delle cose più difficili certe volte è distinguere il bene dal male, no? Però noi questa operazione la facciamo, e facendo questa operazione è ovvio che noi, come dire, speriamo che il male non ci sia, cerchiamo di evitarlo, no? Perché facciamo una costante operazione per non toccarlo, per non farci toccare, per separarlo dalla nostra vita, no? Separarlo, sì, perché tu prima hai citato le culture, mi vengono in mente alcune culture che molto più onestamente magari creano dei riti per auspicarsi, per auspicio, insomma, che il male stia lontano il più possibile, o che ogni individuo si liberi dalla sua parte malvagia, mentre invece noi, mi sembra, che invece andiamo proprio sulla rimozione totale, cioè non abbiamo un rito o una cosa che ci protegga al limite, anche magico se vuoi, dal male, ma decidiamo che questa cosa non è roba nostra. No, è diverso. Soprattutto facciamo, da quando il nostro l'operazione tipica della nostra cultura, che era la cultura, che è la cultura cristiana, no? Consisteva nel dire siamo tutti peccatori, nasciamo peccatori, abbiamo il peccato originale, quindi del male ci dobbiamo occupare perché il male esiste. Poi c'è il rimedio, che se tu fai quello che ha detto Cristo, ti penti dei tuoi peccati e poi ti salvi e risorgi e si vince anche il male della morte. Da quando questa modalità di affrontare il male è andata in crisi, perché è andata in crisi con la crisi della fede nell'aldilà, è andata in crisi a causa del modo di impostare le cose, la scienza, per cui tutto deve essere provato, mentre la fede è una fede, così. Cioè, da quando è andata in crisi tutto questo, noi qual è l'operazione che facciamo rispetto al male? Noi cerchiamo di capire al massimo, noi diciamo sì, il male esiste, ma il male potrà essere un giorno vinto. L'importante è sapere qual è la causa del male. Infatti noi più che altro ci occupiamo delle cause del male e ci occupiamo pochissimo della convivenza col male, perché in definitiva la nostra cultura è una cultura della fiducia nella possibilità un giorno o l'altro di sconfiggere il male. La cultura tecnologica è la cultura della convinzione che un giorno o l'altro risolveremo tutti i problemi. abbiamo il problema della sovraffollamento nella Terra, sulla Terra. Beh, ci trasferiremo su Marte, qual è il problema? Lo risolveremo quel problema. Il punto però è che nel frattempo, che si fa nel frattempo? Nel frattempo non bisogna pensarci, nel frattempo è meglio lasciar perdere. Cioè è una cultura che si prefigura il superamento del male e nel frattempo però si riduce la sua possibilità di convivere col male. Io sono d'accordo fino a un certo punto, nel frattempo è meglio non pensarci, ma anche nel frattempo il male è fuori da me. Nel senso che prima tu parlavi all'inizio della trasmissione quello che si va a cercare come giustificazione è il raptus, no? Certo, sono fuori io. Quindi quello è matto, gli è venuto il raptus non ognuno di noi può avere potenzialmente un momento dove la sua parte ombrosa, cattiva, brutta, emerge, distruttiva, emerge e agisce o fa agire. È arrivato un SMS. Vai. Lo leggo? Vai. Scusate questa interruzione brusca. No. Allora, meglio. Si scrivono. Forse alle volte non vediamo la sofferenza nostra o altrui perché tendiamo a giudicarla. Alcuni tipi li riteniamo validi, altri lagne, tra virgolette, capricci o il frutto di spiriti deboli. Per quanto apparentemente piccola, futile o irrilevante, la sofferenza è sofferenza e andrebbe rispettata e ascoltata. Io per prima però spesso sottovaluto o fuggo perché il dolore, anche se altrui, destabilizza, quindi mi difendo come gli struzzi. È firmato M, al quale va il nostro ringraziamento. Benissimo, grazie, è proprio un esempio di quello che dicevamo prima, cioè della strategia tipica della nostra cultura, che poi è una strategia anche educativa. Per esempio, quanto si preservano e fino alla morte si preservano i bambini dal sapere come stanno le cose della vita, no? Cioè dal sapere, per esempio, che mamma e papà certe volte non vanno d'accordo e che si odiano e che si ammazzerebbero e che lì si preserva da tutto questo. Per cui, in definitiva, quella è la strategia, la strategia dello struzzo, perché è il risultato del fatto che si guarda alla soluzione dei problemi. In realtà ci sono problemi risolvibili e problemi irrisolvibili. Allora, per esempio, cosa accadrebbe se noi ci rendessimo conto che il male esiste, c'è, ci sarà sempre, non vincerà, ma ci sarà sempre, cioè avremo sempre il compito di confrontarci col male e cercare di non farlo vincere? Se ci insegnassero questo, noi non potremmo, tutte le volte che c'è un male, separarlo dal bene, e per esempio potremmo imparare a far convivere bene e male, in modo tale, e se bene e male convivessero, il bene attenuerebbe il male. Una delle ragioni psicologiche per cui il male certe volte vince è questa separazione. Che finché il male è piccolo, finché non c'è, la separazione ti fa bene, perché tu c'hai il bene, stai bene, non ci pensi al male che ti potrebbe arrivare, cioè, ma quando il male arriva e lo devi separare dal bene, tu praticamente vieni ossessionato dal male, pensi solo al male e il bene non agisce sul male e il male prevale. Bene, io andrei in musica, Willy, perché poi voglio tornare e capire un po' più in concreto come fare questa operazione. Baby, and I know where you steal them. here, but we're here. I steered, here is weird, hear those beers. Dear, what's the pantomime? Questi ultimi 10 minuti insieme ai due Franceschi, a Elisa e a William, con Stolen Moment, un grandissimo standard dell'hard bop, qui reinterpretato da Mark Murphy per scrittura originale al sax tenore di Oliver Nelson. E a voi la diretta, cari dottori. Da dottori, sì. Dottore, dottore. Parlavamo di come bilanciare il male agendo sul bene, o comunque con la loro interazione, come può ammorbidirsi appunto anche l'intervento del male. Ma concretamente, sai che io vado sempre un po' alla ciccia delle questioni, al quotidiano. Io domani, per non essere cattiva o per bilanciare la Francesca buona con quella cattiva, cosa devo fare? Considerato che non sono più una bambina e che quindi ormai la parte educativa è andata. Ma qual è il modo? Certo, ti rispondo così, riferendomi proprio al caso concreto di cui abbiamo parlato oggi, sì. No? Alla tragedia, al dramma di cui abbiamo parlato oggi. Tu come fai di solito per tenere separati il bene dal male? Qual è il modo per tenere separato il bene dal male nella vita appunto concreta, quotidiana, tutti i giorni? Col segreto. Hai una famiglia e sei innamorato di un'altra, ma non è che le metti insieme quelle due cose, li separi. Allora è lì che tu cadi nella trappola, perché tu fai un tentativo impossibile di avere due vite separate, quando invece la tua vita reale non è, è tutt'uno. Sei quello lì che torna a casa e pensa a quell'altra, e sei quello che quando corteggia quell'altra si sente in colpa perché ha dei figli a casa o perché ha una moglie a casa. Allora il problema è saper mettere insieme le cose, cioè concretamente si fa così, si fa sconfiggendo la via del segreto. Il segreto, certe volte è importante avere segreti, perché i segreti sono la base di ciò che è esclusivo della persona. Le cose mie, solo mie, che nessuno sa, d'accordo? Però ci sono certi segreti invece che sono deleteri, perché separano il bene dal male, perché impediscono, per esempio, in questo caso qui, mettere tutto insieme avrebbe reso impossibile per questa persona sia continuare a corteggiare quell'altra, sia continuare a stare nello stesso modo con moglie e figli. Il segreto invece consentiva di scindere in due, cioè lui, se vogliamo dire perché quello era matto, era perché era schizofrenico, aveva scisso in due la sua vita. Ma la nostra vita spesso è così. Spesso è scissa in due. Noi stiamo al lavoro ci stiamo male e ci costruiamo una vita parallela. Ma qual è il rapporto tra la vita parallela in cui stiamo meglio è il lavoro dove stiamo male? Nessun rapporto. Solo se ci fosse un rapporto si potrebbero influenzare a vicenda. Il bene e il male andrebbero tenuti insieme. Questo è, sarebbe la via. Cioè l'idea è appunto in questo caso, per esempio, supponendo che sia come l'hanno nascosto. Sì, certo, l'hanno, è ovvio, noi prendiamo sia, quello che leggiamo. Supponiamo che sia la, stiamo parlando, che esatto, quella sia una delle possibili verità di quel caso, no? Quello che avrebbe potuto impedire quello che è accaduto è appunto il fatto di mettere insieme quella cosa nuova e positiva, un nuovo amore che stava accadendo a questa persona, è quello che c'era prima, è quello che lui aveva nella sua realtà di vita. Ma si può dire che questa persona probabilmente nel rifiuto della sua corteggiata, anziché il fatto che appunto la donna che lui corteggiava non fosse magari minimamente interessata a lui, in realtà lo rifiutasse perché aveva questo bagaglio di appunto moglie e figli, e quindi lui ha individuato nella sua famiglia la causa di rifiuto, diciamo, da parte dell'altra? Sì, è possibile tutto, è possibile anche che sia stata che sia come una prova d'amore. È possibile tutto, però non avventuriamoci. No, ma così era una curiosità. Perché per capire, no, bisognerebbe parlare, per capire bisognerebbe più seriamente, ma parte parlare con lui più direttamente. Cioè bisognerebbe appunto entrare nella storia, ci vorrebbe appunto il genio di Dostoevskij. Non basta lo psicologo lì. E tu prima dicevi, torniamo a Dostoevskij, bravo, perché dicevi che buona parte del nostro, diciamo, rifiuto, della nostra separazione bene male, è perché non leggiamo più Dostoevskij? A cosa serve leggere Dostoevskij? Ecco, a cosa serve leggere Dostoevskij? Ecco, Dostoevskij serve a... Ringraziamo Elisa che non dà la voce a Willy. Grazie Elisa, così. Bellissimo, è stata una scena esilarante. Willy che voleva parlare è rimasto muto. Meraviglioso. Però Elisa non sa che ha fatto una grande opera buona. Dicevamo di Dostoevskij. Che Dostoevskij è, come dire, è il modo di rappresentare il mondo è plurale. Allora, cioè, come dire, la verità non ha una faccia sola, ha tante facce. Se noi ci dimentichiamo di alcune delle facce della verità, la verità diventa parziale e può tendere anche a diventare virtuale, può tendere a diventare apparenza. Cioè la verità è fatta di tante apparenze e tutte insieme, che tutte insieme fanno la verità. Per esempio nel mondo di oggi la verità del fatto che l'uomo è mosso da forze che non controlla è una verità trascurata, non guardiamo da quella parte. Dostoevskij semplicemente è chi, come dire, ha guardato da quella parte e ha rappresentato quello che si vede guardando da quella parte. Il fatto che non si legge Dostoevskij è il risultato del fatto che da quella parte abbiamo deciso di non guardare la nostra cultura. Non si guarda da quella parte, al massimo si psichiatrizza quella parte lì della nostra vita, quella parte della verità. Quando si leggeva Dostoevskij, nessuno pensava che il giovanotto che vede gli occhi acquosi di una vecchia e poi la uccide fosse matto, perché Dostoevskij ci fa capire che c'è una grande profonda verità nel voler uccidere un essere che si trova in mondo. Così come c'è una grande verità, Kafka, nel fatto di percepire una parte della propria natura quando da impiegati ci si sveglia una mattina e si scopre di essere uno scarafaggio. C'è una grande verità. Però ogni cultura, in qualche modo, i limiti di una cultura stanno proprio in questo, nel fatto che privilegia certi aspetti della verità dell'uomo e ne trascura altri. Una cultura è tanto più civile, più quanto più è plurale, quanto più contempla facce della verità, quante più facce della verità contempla. Ecco, non leggere Dostoevskij è l'espressione del fatto che quella faccia della verità, cioè il fatto che tu, cioè come dire, che nell'umano ci sono alcune cose, per esempio c'è la verità di quello che guarda gli occhi acquosi di una vecchia e la trova orribile, indegna di vivere e la uccide, che c'è tutto il nazismo dietro, no? Indegno, l'ebreo, lo zingaro sono indegni di vivere e si uccidono. C'è la spiegazione del nazismo dietro di quello, ma in Dostoevskij, per esempio, c'è anche Alyosha dei fratelli Karamazov che dice la colpa di quello che accade è mia. Per esempio, di chi è la colpa di quel delitto di cui stiamo parlando? È nostra, secondo Dostoevskij. Dostoevskij direbbe la colpa è mia, o meglio, la colpa è di tutti. Tutti hanno colpa per quella cosa lì, perché non si sono accorti. Quelli che li intervistano dicono erano delle brave persone, ma vaffanculo, non ti sei accorto. Quale brave persone? Non ti sei accorto, è colpa tua. Allora è colpa di tutti, ma soprattutto è colpa mia. Soprattutto è colpa mia. Cioè tu... Allora, questo per esempio è un altro aspetto dell'umano che abbiamo smarrito. Ora c'è lo sport che ci contraddistingue tutti, e di dire non è colpa mia. No, anzi, se si può riflettere all'esterno, trovi il capro espiatorio che dice ah, è lui il cattivo, certo. È matto. Esatto, altro che assumersi le proprie colpe. Non, uno qui viviamo in un mondo in cui non ci si assumono neanche le colpe quando si hanno. Dostoevskij dice che ce l'abbiamo anche quando non ce l'abbiamo. Pensiamo. Siamo in chiusura con Dostoevskij. Associa. Comunque in non chiave... si dice quella parola. Vabbè. Quale parola? Cosa abbiamo detto? Ho detto. Abbiamo detto socia, io dicevo. Io comunque dicevo, per invece prima, chissà cosa ho detto. Un autore no, attuale. Oggi sei stato bravo, oggi sei stato bravissimo. Un attore attuale che sta indagando queste cose qua a modo suo, in maniera completamente diversa da Dostoevskij, è Murakami, che anche lui sull'indagine dell'individuo in tutte le sue sfaccettature ne sta facendo. Quindi insomma abbiamo dato anche dei consigli di lettura oggi. Oh. Assolutamente importanti, ecco. Anche livello di consiglio di lettura. Peccato, sono già le 14:01. Questo tempo. Dobbiamo sempre affrontare la questione del tempo. Bene. Che passa. Continueremo. Troppo veloce. E quindi a mercoledì prossimo. A mercoledì. Ciao. Ciao da due Franceschi, da William e da. Salutiamo anche Lisa. Ciao. Ciao. E la ringraziamo. Grazie Lisa. Grazie a voi. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.